Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Bentornati a Voci d'impresa, con noi ancora Alberto Alessi. Migliaia di proposte, disegni, oggetti, un museo creato appositamente per tramandarne la memoria. Quasi impossibile quindi scegliere una, tra virgolette, creatura prediletta. Un oggetto al quale sono particolarmente affezionato è la prima caffettiera espresso prodotta dall'Alessi, che è in produzione dal 1979. Che è stata disegnata da Richard Sapper, e questa caffettiera per molti motivi mi è cara, perché il primo credo progetto, uno dei primissimi progetti di davvero straordinaria qualità di design che io abbia creato, contribuito a far nascere, cosa ho detto, che lapsus, che abbia contribuito a far nascere, perché è il primo oggetto Alessi nella cucina. Adesso magari lei ci conosce vagamente perché ci identifica con la cucina, ma pensi che dal 1921, quando l'azienda è stata fondata da mio nonno Giovanni, al 1979, quando è nata questa caffettiera, l'Alessi non era mai entrata in cucina. Noi lavoravamo solo sulla tavola, sull'accessorio decorativo da tavola, e cioè vassoi, coppe, fruttiere, servizi da tè, da caffè, ma non oggetti per la cucina. Un altro motivo per cui ci sono affezionato è che allora era nata in me l'idea di fare una caffettiera come un omaggio a quell'altro mio nonno che si chiamava Alfonso Bialetti e che è stato l'inventore del processo della moca della caffettiera espresso e anche il disegnatore, e poi si è messo a produrre e ha costruito una fabbrica che era quella della moca express. Allora ho detto va bene, allora come il nonno ha fatto la sua moca, provo a farne una anch'io, dunque 50 anni dopo. Il capitano che cosa fa? Quel vecchio lupo di mare si sta facendo un espresso, e è facile indovinare, con la caffettiera Moca Express. Quella che usiamo anche noi, con la caffettiera Moca Express. Un espresso meglio che al bar. Caffettiera Moca Express in 5 misure. Caffettiera Moca Express, prodotta da Bialetti a Crusinallo nella più grande fabbrica di caffettiere espresso per famiglia. Imprinting di famiglia per Alberto Alessi, che eredita i geni dei due nonni, quello follemente creativo del nonno materno e il senso imprenditoriale di quello paterno. Beh sì, essendo una fabbrica, un'azienda italiana, così questa tradizione della famiglia è inevitabile. Dei nonni, ricordi dei nonni. Il nonno materno, Alfonso Bialetti, mi ricordo, lui era più vecchio del mio nonno paterno, era un tipo molto bizzarro, perché aveva uno spirito artistoide più che di imprenditore vero. E aveva fondato questo suo laboratorio di fusione di alluminio, poi ogni tanto falliva perché non voleva dimenticare di farsi pagare dai clienti, con grande ispirazione della nonna, e poi lo riapriva dopo 6 mesi da un'altra parte, sempre qui nella zona. Era un grande tecnico della fusione in alluminio. E invece il nonno Alessi l'ho frequentato molto di più perché era più giovane, e lui era molto severo, il nonno, mamma mia. Mi ricordo che come massimo complimento lui a un certo punto mi dice, quando avevo un po' di difficoltà qui nell'ambiente perché volevo fare delle cose che sembravano un po' matte, allora a un certo punto mi fa, il dialetto bignese, ti doveva fa annodare. Cioè tu avresti dovuto fare il notaio per incoraggiarmi. Questo è il massimo di incoraggiamento che ho avuto dal nonno. Un uomo che ha dunque condizionato molto il mondo del design italiano e quindi ne conosce la storia e l'evoluzione in tutte le sue sfaccettature. Beh, l'Alessi adesso è diventata, è stata molto coerente secondo me con le sue radici. E è diventata progressivamente un bel esempio del fenomeno delle fabbriche del design italiano. Sai, io ci tengo proprio a parlarne delle fabbriche, di questo fenomeno, perché non è molto importante da un punto di vista quantitativo. Mettiamole tutte insieme, queste fabbriche poi sono nel settore dell'arredamento, dell'illuminazione e dell'oggettistica come noi, ma saranno una trentina al massimo, e fanno un fatturato che è un frammento irrilevante del fatturato di un'azienda come la Fiat. Però sono diventate per motivi misteriosi un pezzo della bandiera del Made in Italy, proprio perché hanno portato avanti, secondo me, perfezionato anno dopo anno, decennio dopo decennio, una pratica di design, di qualità eccellente di design, che non ha l'eguale in giro per il mondo. Cioè, se lei oggi cerca i migliori esempi del design francese, e beh, deve obbligata a andare ad aprirsi le pagine dei cataloghi delle fabbriche del design italiano. E lo stesso se cerca il miglior design inglese o brasiliano. Perché? Perché queste aziende hanno saputo, si sono basate, diciamo, su un contesto industriale molto preciso, una specializzazione molto verticale in un certo tipo di lavorazione, che sia l'imbottito, faccio per dire, del mobile, che sia la formazione, lo stampaggio a freddo del metallo nel caso nostro. E poi ci hanno introdotto l'ingrediente di una grande attenzione all'aspetto, al gradiente estetico. E siamo diventati a poco una specie di laboratorio, sia pure industriale, di ricerca, un laboratorio di ricerca nel campo delle arti applicate, cioè del design. La caratteristica vera delle fabbriche del design italiano è di essere i mediatori. Noi riteniamo che il design è una disciplina di matrice squisitamente artistica e poetica, è una nuova forma d'arte o di poesia molto, tra l'altro, tipica dei tempi che stiamo vivendo. Quindi la nostra attività è un'attività di mediazione artistica. E mediamo da un lato le più, se possiamo, le più interessanti espressioni della creatività internazionale nel campo del product design, e dall'altro la mediamo con i sogni del pubblico. Io mi rifiuto di usare la parola mercato, ma i sogni, l'immaginario del pubblico. Questa attività di mediazione è lì che risiedono le skills, come si dice alla Bocconi, insomma, le caratteristiche di queste fabbriche, cioè saper mediare senza togliere da troppo dell'aspetto artistico della creazione, e senza però farlo diventare una cosa che il pubblico non capisce e non desidererà mai. La mia attività, per esempio, come design manager nell'Alessi, è evidente che uso degli attrezzi, degli strumenti completamente diversi, ma non è molto diversa nella sostanza che se fossi un gallerista d'arte moderna, o un direttore di un museo, o addirittura uno che fa film. Cioè metto insieme e dirigo talenti di natura diversa con lo scopo di toccare l'immaginario del pubblico. Non a caso l'ho chiamata la fabbrica dei sogni, questa azienda. Un altro fenomeno interessante del design italiano è questo. Fino a tutti gli anni 70 il design italiano era praticamente senza eccezione caratterizzato da due elementi che si presentavano sempre uniti: essere disegnato da designer italiani, da autori italiani, ed essere prodotti in Italia. Alla fine degli anni 80, a metà degli anni 80, la situazione era già cambiata, cioè la maggior parte, più del 50% dei progetti interessanti del design italiano non erano più disegnati da autori italiani, ma da autori stranieri, cioè le fabbriche del design italiano si erano aperte alla creatività internazionale, o meglio, gli autori internazionali avevano cominciato a venire a Milano perché volevano lavorare per le fabbriche del design italiano, perché queste qui erano proprio dei bravi mediatori. Cioè, se uno entra dalla porta qua, capisce che la gente che incontrerà, con tutti i suoi limiti, farà di tutto per rendere reali i suoi sogni, parlando di un autore. Un ultimo sogno per Alberto Alessi, parzialmente realizzato: la produzione di un vino biologico. Ci racconta anche questa ennesima avventura. Il mio progetto proprio privato, che non c'entra niente con la tradizione familiare, che col passione mia che coltivavo da tanto tempo e che sono riuscito a concretizzare quasi dieci anni fa, quando ho trovato una vecchia azienda agricola situata sul lago d'Orta che nei secoli passati produceva vino. A parte che a me il vino piace tantissimo, però insomma avevo sempre in mente l'idea di fare, che mi sarebbe piaciuto tanto anche farlo e non solo consumarlo. salvo che non, per me non ha nessun interesse, che so, comprarmi un ettaro di vigna, per quanto squisita, in Toscana piuttosto che in Borgogna, non mi interessa proprio niente. Invece di farla qui, in questo luogo in cui sono così radicato, mi è sembrata un'occasione da non perdere. E così ho fatto. L'azienda agricola era completamente in selva attichita, quindi abbiamo lavorato per più di 3 anni per preparare il terreno, togliere le piante selvatiche che erano cresciute. E nel 2005 abbiamo cominciato la piantagione, 2005-2006. L'azienda agricola è tutta gestita in biodinamica, che sarebbe la corrente più fondamentalista del biologico, sa quello, perché le impedisce l'uso di qualsiasi prodotto chimico di sintesi. In più non deve fare interventi invasivi neanche sul terreno, quindi deve fare poche cose. E poi si usano le tisane di fiori, di erbe, invece delle medicine di sintesi. E adesso stiamo facendo le prime vendemmie. La prima l'ho fatta nel 2000, la vendemmia del 2007, e ho fatto 200 bottiglie sperimentali che ci siamo bevute tutte. L'anno scorso ne ho fatte un po' di più, quest'anno dovrebbe essere la prima vendemmia seria, vera. L'obiettivo era di realizzare il miglior bianco italiano mai prodotto, quindi ambiziosissimo. Adesso vediamo, non sono ancora in grado di dire come va a finire, però sono abbastanza fiducioso. E poi soprattutto in questo sì, e si è realizzato il sogno, mi piace proprio tanto, cioè io ci lavoro, per quanto sono più qui naturalmente a questo tavolo, appena posso vado su a lavorare, a potare a marzo, a fare tutte le vendemmie e poi tutto il lavoro. Beh, evidentemente abbiamo un dipendente che fa solo quello, perché da soli non ce la faremmo, ma il lavoro di cantina, per esempio, lo facciamo tutto noi e mi piace tantissimo. È tutto per questo appuntamento con Voci d'Impresa. Grazie ad Alberto Alessi per essere stato con noi. Un saluto da Lara Vecchio.